GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica dalla Razzani e Francesca Vigori. In apertura del nostro giornale radio, la cronaca. 7 colpi di pistola a salve sono stati esplosi ieri sera nel corridoio esterno di un palazzo del centro di Udine, creando allarme tra passanti e residenti. L'episodio segue di qualche giorno un fatto analogo avvenuto a poche decine di metri di distanza. Si ignorano le ragioni del gesto, ma il responsabile sarebbe stato immortalato da una videocamera di sicurezza e la polizia sarebbe vicina alla sua identificazione. Alle ore contate, l'autore dell'esplosione di alcuni colpi di pistola in via Zoletti a Udine. Si tratterebbe di un uomo, apparentemente dell'età di 30 anni, di origine caucasica, che si sarebbe allontanato a piedi in direzione di Viale Ungheria. Poco dopo le 20 di ieri sera, alcuni passanti e residenti del posto, allarmati, hanno allertato le forze dell'ordine dopo aver sentito una sequenza di colpi di arma da fuoco. Una volante della questura di Udine è subito giunta sul posto, dove era già arrivata una pattuglia dei vigili notturni a seguito di una segnalazione di allarme giunta dalla banca di credito cooperativo. Sul pavimento del passetto che collega via Zoletti con via del Pozzo, gli uomini della polizia hanno rinvenuto 7 bossoli, probabilmente a salve. Cristallizzata la scena, gli uomini della scientifica hanno effettuato i rilevi, repertato i bossoli trovate, acquisite e visionate le immagini delle telecamere di sicurezza sia della banca che quelle presenti in loco. Gli uomini della questura di Udine hanno raccolto elementi utili e sufficienti per l'individuazione dell'autore del gesto. Da chiarire anche se l'uomo sia l'autore di un episodio simile avvenuto la scorsa settimana in via Giusti, a poche decine di metri di distanza da via Zoletti. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Centro di Trieste in festa questa mattina per il raduno nazionale dei Fanti d'Italia. Alza bandiera, fanfare e consegna del sigillo trecentesco della città nella festa conclusiva della 3 giorni nel capoluogo. Sentiamo. I Fanti d'Italia sono stati decisivi nella realizzazione dell'unità nazionale. Il messaggio del presidente Mattarella scalda il cuore dei migliaia di presenti alla 36esima giornata nazionale del Fante, il cui raduno è in corso in Piazza Unità a Trieste. Sono arrivati da tutta Italia, principalmente dal Veneto e dalla Lombardia, molti con le famiglie al seguito. Un'occasione per sottolineare l'importanza che ha avuto la Naia nella loro formazione e per rievocare il mito del Piave e del Milite Ignoto, valori fondanti dell'arma. 450 le sezioni arrivate che hanno sfilato sulle rive cittadine fino alla piazza, hanno marciato davanti alle autorità poi. Tra i Fanti anche alcuni alpini e bersaglieri, oltre a paracadutisti lagunari, tutti facenti parte dell'arma. Molte le iniziative collaterali che si sono svolte ieri anche fuori città, sul Carso e sull'Isontino. Altre dureranno per tutta la giornata di oggi, come ad esempio la consegna del sigillo trecentesco al 66esimo reggimento fanteria aeromobile Trieste di stanza Forlì. Alle 18 la Marina Bandiera, dal punto di vista della viabilità, disagi per il traffico con la zona interdetta e la città di fatto tagliata in due. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo al tempo in Friuli Venezia Giulia. Il cielo è sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Le temperature a Trieste 24 gradi, la temperatura del mare di 21 gradi, a Gorizia 25, a Udine Pordenone 23, a Tolmezzo 21 gradi, a Forni di Sopra 19, a Tarvisio 18, a Piancavallo e a Sappada 14, sul Monte Zoncolan 12, sul Monte Lussari 8, a Legnano 24, a Grado 22. Oggi pomeriggio sulle zone centro-occidentali il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, da poco nuvoloso a variabile sulla fascia orientale, dove saranno più probabili rovesci e temporali rispetto ad altre zone. Venti a regime di brezza sulle zone occidentali, borino su quelle orientali, specie dal pomeriggio sera. Ha registrato il tutto esaurito anche questa edizione dell'Open Day in corso al porto di Trieste. Gli iscritti al tour sono stati i primi a vedere l'area dei cantieri dell'ex Ferriera di Servola e la piattaforma logistica operativa. Primo Open Day del porto di Trieste dalla pandemia e il sesto in totale. Gli 8 turni di visita gratuita per un totale di 400 posti sono andati esauriti in 2 giorni, segno del grande interesse dei cittadini che vogliono vedere da vicino le attività di scalo. A prenotarsi soprattutto anziani e famiglie con bambini piccoli, tutti a bocca aperta di fronte alla maestosità delle gru e dei container. Ogni turno di visita comincia con il saluto del presidente uscente Zeno D'Agostino. La verso una realtà in grande espansione e in perfetta salute, ha detto. I bilanci di ogni settore sono cresciuti in questi anni, mantenendosi però in armonia fra di loro e con il contesto. Questa è la forza di un porto così diversificato nelle sue attività economiche. In un contesto internazionale incerto, cadiamo sempre in piedi. Grande punto di forza che ormai diamo per scontato, ha detto Zeno D'Agostino, sono i fondali con 18 metri di profondità naturale, invidiati da tutti. Basti pensare che a Venezia hanno solo 10 metri e mezzo di pescaggio. E poi ha parlato della ferrovia, che è nel DNA del porto di Trieste. Qui si caricano talmente tante merci su rotaia da essere già oltre le richieste europee, un vantaggio indiscusso per l'ambiente. I visitatori di questo Open Day sono i primi a vedere l'area dei cantieri dove un tempo c'era la ferriera di Servola. Qui si sta costruendo il nuovo terminal ferroviario e il futuro molo ottavo. A fianco c'è il terminal container del molo settimo, poi il pullman che trasporta i visitatori fa sosta alla Silocaf, così da ammirare le grandi catasse di sacchi di caffè, immagine simbolo di questo Open Day. Poi di nuovo tutti a bordo verso il terminal RoRo, il sistema di carico e scarico su ruota di Samer. Chi sarà il nuovo presidente? D'Agostino ribadisce che a decidere è Roma, ma parla di continuità, qualcuno che porti avanti i progetti mantenendo questo ritmo di crescita, ha detto. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. È in corso in regione un tentativo di truffa online relativo alla possibilità falsa di poter viaggiare gratuitamente sui mezzi di TPL FVG. Circola in queste ore sul web e sui social media una finta campagna di comunicazione, già all'attenzione del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia. L'importante, ricorda anche TPL FVG in una nota diffusa sui propri canali social, è fare molta attenzione a non cliccare sul link riportato in calce e post e fidarsi unicamente dei canali ufficiali della regione di TPL FVG, delle aziende consorziate a Riva Udine, a Pitigorizia, a Trieste Trasporti e a TAP Pordenone e delle amministrazioni comunali. E siamo allo sport e con il calcio, al Frosinone basta un punto, l'Udinese è legata al risultato dell'Empoli con la Roma. Queste le premesse con le quali bianconeri scendono in campo alle 20.45 per la partita più importante della stagione, decisiva per la permanenza in Serie A della squadra friulana. Allo stadio Benito Stirpe è previsto l'arrivo di almeno 1.200 tifosi friulani, ma i sostenitori che non potranno seguire la squadra del cuore in Lazio avranno invece la possibilità, grazie a un'ordinanza del sindaco, di assistere alla partita nelle vie e nelle piazze della città. Sarà infatti permesso a tutti i locali del territorio comunale di trasmettere la partita Frosinone-Udinese all'esterno degli esercizi e di posizionare sedie e tavolini su suolo pubblico. Basket, dopo la vittoria di venerdì nella gara 3, questa sera Apo Udine di nuovo in campo contro Cantù per la gara 4. Si gioca alle 19 al Pala Carnera. Basket femminile, Women Apu sconfitte ieri sera in gara 1 della finale dei playoff dalla Eco de Malpo per 85-75. Saranno di nuovo in campo mercoledì 29 a Villa Franca. Baseball, duplice sconfitta per la Gerion Engineering Ronchi nel primo turno casalingo del girone di ritorno del campionato di Serie A di baseball, opposta alla capolista Rovigo, 5-2, 9-2 i risultati a favore degli ospiti. Nella prima partita sostanzialmente equilibrata, dopo una partenza favorevole ai veneti, i ronchesi hanno tentato il recupero riuscendo ad avvicinarli verso fine gara, ma sul 3-2 Rovigo è riuscita a segnare l'ultimo inning, i due punti che hanno dato loro la certezza della vittoria finale. Nella partita serale, viceversa, gli ospiti controllano agevolmente le mazze locali e, approfittando di una cattiva partenza del lanciatore di casa, scavano un solco difficilmente colmabile già dalle prime riprese. Solo verso la fine l'attacco delle Pantere si fa sentire, segnando i due punti della bandiera. Ora Ronchi scivola al quarto posto in classifica, a 3 vittorie di distanza dalla stessa Rovigo. Ultima giornata del Festival Storia a Gorizia, tra gli incontri più attesi quello dedicato all'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023. Ne parleranno Marco Travaglio, Federico Rampini e Benny Moritz, nato in Israele nel 1948, paracadutista, docente di storia del Medio Oriente all'Università Ben Gurion e a quella di Georgetown, al Teatro Verdi di Gorizia alle 17.30. Qualche altro appuntamento della giornata in regione: si conclude oggi il secondo fine settimana di Sapori Pro Loco a Villa Manin ed è l'ultimo giorno anche per Olio e Dintorni a Oleis di Manzano e per Cantine Aperte. Fra gli altri appuntamenti della domenica, Cividale c'è la caccia al tesoro, scopriamo i Longobardi, l'appuntamento alle 15 in piazza Duomo. Nella piazza medievale di Venzone ritorna il Parque Fest, una vetrina dei parchi e delle riserve naturali della nostra regione, delle aree montane di Veneto, Carinzia, Croazia e Slovenia. Si chiude qui questo giornale radio, redatto e condotto da Lara Zani e Francesca Vigori, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello, Andrea Fontanotte e Laura Sarasini in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.